C'è una cattiveria nella perfezione ed io la miro, trascendendo la bestia molesta in creatura, mentre contemplo i lineamenti in assetto di guerra di una non pregevole Madonna maremmana. Occhi pieni di terra, tarlato fino a macerie molecolari, papule maculate, quel viso ligno, cloasma in leggerissima claustrofobia, la mia calotta claustrale, disastrata da minacce climateriche, preeclampsie dello spirito inclaudicante, rischio di piccolo e calmo culmine, colossalmente ciellino, colmo di partito democratico. Per tali minacce climatiche, nelle cloache il clochard si catapulta ai miei santi piedi di povera monaca, come in Clockwork Orange.